Che cosa sta succedendo anche in termini di trend e di modalità con le quali la pubblicità diventa sempre più presente su internet? Beh, direi che ci sono due grandi fenomeni paralleli che si stanno svolgendo sotto i nostri occhi, che hanno a che fare appunto con la crescita del mercato, del numero complessivo di utenti che usano internet in Italia. Abbiamo superato i 20 milioni abbondantemente. E questo, diciamo, il primo fenomeno riguarda l'aumento degli utenti e quindi dell'utilizzo di internet, che fa crescere complessivamente la quota parte assoluta di pubblicità sul mezzo. Obiettivo che Laila Pavone ci descriverà, penso, più approfonditamente nel suo prossimo intervento, è quello comunque di raggiungere una cifra intorno al 10% per il prossimo anno su una torta complessiva di investimenti pubblicitari che, ricordiamo, nel 2008 ci aspettiamo sia intorno ai 9 miliardi di euro per la pubblicità su tutti i media. Quindi internet diventa un mezzo molto importante e quindi crescono le campagne di prodotto pubblicitarie, anche istituzionali, anche di branding. Si pensa a internet come un mezzo per raggiungere molti utenti e raggiungerli bene. Questo è il primo fenomeno. Il secondo fenomeno è quello, diciamo, della verticalizzazione nella comunicazione, che poi si esplica attraverso, diciamo, tre macro categorie. Diciamo, la crescita di investimenti che si sta spostando sempre più rapidamente verso, per esempio, grandi quotidiani online che raccolgono sempre più pubblicità, verso siti tematici e verticali che raggiungono, diciamo, i target degli utenti in maniera più puntuale. Una seconda parte, diciamo, lo sviluppo della pubblicità iperspecializzata o ipertargetizzata, quindi per esempio quello che vediamo con i motori di ricerca, no? La pubblicità del search advertising, quei piccoli messaggi di testo che sono associati al contenuto di un sito. Se il tuo sito parla di Clint Eastwood, troveremo molto più probabilmente le pubblicità che sono coerenti con questo tema, fino ad arrivare all'estremo che è lo sviluppo della cosiddetta pubblicità comportamentale o behavioral targeting. Cioè entrare in profondità all'interno di quelli che sono i comportamenti di navigazione degli utenti, conoscerli, entrare in relazione con questi e quindi imparare dal loro comportamento per giungere a fornire delle pubblicità che siano contestuali a quelli che sono gli interessi reali degli utenti.